Pronto, Giordano? Ciao. Ciao, come stai? Bene, abbastanza, dai. Dove sei in questo momento esatto, Giordano? Sono a casa. Che lavoro fai? Disegnatore tecnico. Scusami? Disegnatore tecnico. Disegnatore, quindi disegni della roba, lasciami dire, tecnica, però di che tipo? Facciamo praticamente periferiche per spostare il vetro, cavo, in vetreria. No, aspetta, scusami, perdonami se mi soffermo su cose tecniche. Tu cosa vuol dire che fai, cosa sono delle periferiche? Cioè, facciamo macchinari che spostano il vetro dalla macchina, praticamente, che ha stampato il vetro. La macchina. Ah, ok, lavori per un'azienda che crea dei macchinari che spostano il vetro. Sì. Ma e tu cosa disegni? Le macchine, i macchinari? Sì, ma anche macchinari particolari, accessori. Ok, di dove sei esattamente? Di Brescia? No, sono di Vicenza. Sei di Vicenza, giusto, l'avevi detto in apertura, perdonami. Di che paese esattamente? Adesso sto a Corneto Vicentino. Scusami? Corneto Vicentino. Corneto Vicentino, certo. Tanto tutti i nomi, tutti i paesi più o meno ci hanno attaccato Vicentino o... Sì. In quella zona lì. Senti, Giordano, raccontami quanti oggetti ti sei liberato da quella volta o se ce li hai ancora tutti nella cantina. È venuto a prendersi le altre sedie. È tornato? Sì, è tornato. Quando è tornato? Dopo un po' di mesi. Ma era lo stesso? Sempre lo stesso, vestito uguale. Con le stesse All Star? Sì, sempre vestito sempre uguale, preciso, identico. Solo sono riuscito a chiedergli il nome sto giro. E come si chiamava? Vittorio. Ma ringraziamo Vittorio. Ma t'ha pagato? No. No, ma lui praticamente ha preso questa serie qua, ma da quello che ho capito, gli servivano... C'erano delle serie d'ondolo con questi paletti qua un po' lavorati, gli servivano per fare qualcos'altro, cioè lui non le ha usate come serie. Ma questo cosa fa nella vita, scusami Giordano, abbiamo capito? Penso forse, non so, il trovarobista, oppure farà, che ne so, prenderà spunto dei programmi là che rielaborano gli oggetti vecchi per fare qualcos'altro, non so se è presente. No, non ho molto presente, ma mi sembra di capire però che da quelle parti fate dei lavori che sono molto lontani da quelli che facciamo noi, perché tra il disegnatore del portavetro e quello che fa il trovarobista, perlomeno nel Novarese non ci sono questi lavori, non so nel Vicentino. Penso che lo faccia come hobby comunque, auguro almeno. Senti, Giordano, io ti ringrazio moltissimo per il tuo racconto e vi faccio gli in bocca al lupo per Thomas e per tutto il resto. Ok, grazie. Buona giornata.